Diciannovesima traccia. Giuro che non ricordo d'aver sentito per un pezzo una cosa che mi abbia dato tanta soddisfazione. Mi ha sempre fatto dispiacere che Jane Fairfax, che suona così deliziosamente, non possedesse uno strumento. Pareva proprio una vergogna, specie se si considera quante case esistono dove ottimi strumenti sono assolutamente buttati via. Questo è come dare uno schiaffo a noi stessi, via. E non più tardi di ieri io stavo dicendo a Mr. Cole che veramente mi vergognavo a guardare il nostro nuovo pianoforte a coda nel salotto mentre io non so distinguere una nota dall'altra. E le nostre bambine, che non cominciano che ora, forse non saranno mai capaci di cavarne qualcosa. E c'è la povera Jane Fairfax, che è maestra di musica, e non ha nulla in fatto di strumenti, neanche la più misera vecchia spinetta per divertircisi. Stavo dicendo questo a Mr. Cole non più tardi di ieri, e lui era d'accordo con me, solo che gli piace tanto la musica che non poté trattenersi dal lasciarsi andare a quella spesa, sperando che qualcuno dei nostri buoni vicini possa essere così cortese da farne di tanto in tanto un uso migliore di noi. E questa è realmente la ragione per cui è stato comprato lo strumento, se no son sicura che dovremmo vergognarcene. Abbiamo grandi speranze che Miss Woodhouse possa venire persuasa a provarlo stasera. Miss Woodhouse annuì come di dovere, e vedendo che non c'era da cavar altro da quanto stava dicendo Mrs. Cole, si voltò verso Frank Churchill. «Perché sorridete?» disse. «E voi perché ridete?» «Io suppongo che sorrido dal piacere che il colonnello Campbell sia così ricco e generoso. È un bel regalo.» «Davvero? Mi meraviglio piuttosto che non sia stato fatto prima. Forse Miss Fairfax non si è trattenuta così a lungo qui. O che non le abbia concesso l'uso del loro strumento, che ora deve essere chiuso a Londra, senza nessuno che lo suoni. Quello è un pianoforte a coda ed egli potrebbe ritenerlo troppo grande per la casa di Mrs. Bates. Potete dire quel che volete, ma la vostra espressione attesta che i vostri pensieri al riguardo sono molto simili ai miei. Non lo so. Credo piuttosto che mi attribuiate più acume di quanto io non possegga. Io sorrido perché sorridete voi. E probabilmente sospetterò tutto quello che vi vedrò sospettare, ma per il momento non vedo che dubbio ci possa essere. Se non è il colonnello Campbell la persona, chi può essere? Che ne direste se fosse Mrs. Dixon? Mrs. Dixon? Ma sicuro, non ci avevo pensato. Essa deve sapere, non meno bene del padre, quanto sarebbe gradito uno strumento. E forse la maniera del dono, il mistero, la sorpresa, pare più l'idea di una giovane che di un uomo anziano. Scommetto che è Mrs. Dixon. Vi dicevo che i vostri sospetti avrebbero guidato i miei. Se è così, dovete estendere i vostri sospetti e includervi Mr. Dixon. Mr. Dixon, benissimo. Sì, vedo immediatamente che deve essere stato il regalo comune di Mr. e Mrs. Dixon. Parlavamo l'altro giorno, sapete, di che caldo ammiratore gli fosse della sua esecuzione. Sì, e quello che voi mi diceste in proposito confermò un'idea che m'era venuta prima. Non intendo di criticare le buone intenzioni di Mr. Dixon o di Miss Fairfax, ma non posso trattenermi dal sospettare che, dopo essersi dichiarato alla sua amica, egli si accorgesse d'un piccolo attaccamento da parte della ragazza. Uno potrebbe congetturare 20 cose senza azzeccare la giusta, ma son certa che ci deve essere una ragione speciale perché lei abbia scelto di venire a Highbury invece di andare in Irlanda coi Campbell. Qui essa deve condurre una vita di privazione e di penitenza. Là sarebbe stato tutto un godimento. Quanto alla pretesa di provare l'aria nativa, la considero una mera scusa. Fosse estate, la cosa poteva passare. Ma che giocamento può recare a chiunque l'aria nativa nei mesi di gennaio, febbraio e marzo? Bei fuochi e belle carrozze sarebbero più appropriati nella maggior parte dei casi di persone di salute delicata, e oso dire nel suo. Non vi chiedo di far vostri tutti i miei sospetti, benché voi così nobilmente professiate di farlo, ma onestamente vi dico quali sono. E parola d'onore hanno un'aria di grande probabilità. La preferenza di Mr. Dixon per la sua musica a quella dell'amica vi posso garantire che era spiccatissima. E poi egli le ha salvato la vita. Ne avete sentito parlare? Una gita in mare, e per un incidente essa fu sul punto di cadere in acqua. Egli l'afferrò in tempo. Proprio così. Io c'ero, ero uno della comitiva. Davvero? Allora, ma voi naturalmente non avete osservato nulla, perché l'idea sembra che vi giunga nuova. Se fossi stata lì, io credo che avrei fatto delle scoperte. Immagino di sì. Ma da quel semplicione che sono, io non ho visto altro che il fatto che Miss Fairfax fu sul punto di venire scaraventata fuori dall'imbarcazione e che Mr. Dixon l'afferrò. Fu questione di un attimo. E sebbene la scossa e l'allarme che ne seguirono fossero grandissimi ed assai più durata, credo in verità che ci volesse una mezz'ora prima che chiunque di noi si sentisse di nuovo a suo agio. Pure quella sensazione fu troppo generale perché potesse osservarsi traccia di un'ansia particolare. Non voglio dire però che voi non avreste potuto scoprire qualcosa. A questo punto la conversazione fu interrotta. Essi furono chiamati a condividere l'imbarazzo ad un intervallo piuttosto lungo tra le portate e obbligati a essere non meno compassati e corretti degli altri. Ma quando la tavola fu di nuovo finita di apparecchiare e ogni piatto d'angolo fu collocato al suo posto, e tutti tornarono a lavorare di forchetta e a essere disinvolti, Emma disse: «Per me l'arrivo di questo pianoforte è decisivo. Desideravo di sapere un po' di più, e questo mi dice quanto basta. Statene pur certo, verremo presto a sapere che è un dono di Mr. e Mrs. Dixon». «E se i Dixon dovessero assolutamente negare di saperne nulla, dovremmo concludere che viene dai Campbell». «No, sono sicura che non viene dai Campbell. Miss Fairfax sa che non viene da loro, altrimenti avrebbe pensato a loro per primi. Non sarebbe rimasta perplessa se avesse potuto arrischiarsi a fissarsi su di loro. Posso non avervi convinto, ma quanto a me sono perfettamente convinta che Mr. Dixon ha una parte principale nella faccenda». «Davvero mi fate torto se supponete che io non sia convinto. I vostri argomenti trascinano completamente il mio giudizio. Dapprima, quando supponevo che voi ritenevate che il donatore era il colonnello Campbell, consideravo il dono solo come un atto di gentilezza paterna e la cosa più naturale del mondo. Ma quando avete fatto il nome di Mrs. Dixon, mi parve molto più probabile che fosse il tributo d'una calda amicizia femminile, e ora non riesco a vederlo sott'altra luce che come un'offerta d'amore». Non c'era da insistere, la convinzione pareva reale. Egli aveva l'aria di sentirlo. Emma non disse altro, nuovi temi ebbero il loro turno, e così passò il resto del pranzo. Succedettero le frutta, entrarono i bambini, e fu rivolta loro la parola e furono ammirati tra il consueto scambio di conversazione. Furono dette alcune cose spiritose, altre assolutamente sciocche, ma in massima parte cose né sciocche né spiritose, nulla di peggio di osservazioni usuali, monotone ripetizioni, notizie vecchie e pesanti facezie. Dopo non molto che le signore si trovarono nel salotto, le altre signore arrivarono nei loro vari gruppi. Emma osservò l'ingresso della sua piccola amica particolare, e se non poté esultare della sua dignità e della sua grazia, poté non soltanto trovarne adorabile la fiorente suavità e la maniera ingenua, ma anche godere di tutto cuore di quell'indole leggera, gaia, aliena da sentimentalismo, che le concedeva tanto sollievo di piacere in mezzo alle pene d'un affetto deluso. Eccola là, seduta. E chi avrebbe potuto indovinare quante lacrime aveva sparso di recente? Essere in compagnia, ben vestita lei stessa, e vedendo ben vestiti gli altri, sedere e sorridere, e mostrarsi bella e non dir niente, bastavano per la felicità del momento. Jane Fairfax appariva superiore nell'aspetto e nelle movenze, ma Emma sospettava che sarebbe stata lieta di cambiare i suoi sentimenti con quelli di Harriet lietissima di procurarsi la mortificazione di aver amato. Sì, d'aver amato perfino un Mr. Elton invano, con la cessione di tutto il pericoloso piacere di sapersi amata dal marito della propria amica. In una riunione così numerosa non era necessario che Emma l'avvicinasse. Non desiderava parlare del pianoforte, sentiva d'essere troppo a parte del segreto lei stessa per pensare che fosse onesto non mostrare curiosità o interesse, e perciò di proposito si tenne a distanza. Ma dagli altri l'argomento venne introdotto quasi subito, ed Emma vide il rossore di consapevolezza con cui erano ricevute le congratulazioni, il rossore della colpa che accompagnava il nome del mio eccellente amico il colonnello Campbell. Mrs. Weston, così di buon cuore e amante della musica, provava uno speciale interesse per quel dono, ed Emma non poté non divertirsi della sua perseveranza nell'indugiarsi sull'argomento e nel suo non finir più di far domande sul tono, sul tocco e sul pedale, senza minimamente sospettare quel desiderio di parlarne il meno possibile che essa leggeva in chiari caratteri sul volto della bella eroina. Presto alcuni dei signori si riunirono a loro, e il primo di questi solleciti fu Frank Churchill. Entrò il primo e il più bello, e dopo aver presentato di passaggio i suoi doveri a Miss Beth e a sua nipote, si diresse immediatamente alla parte opposta del circolo, dove sedeva Miss Woodhouse, e finché non poté trovare un altro posto presso di lei, non volle sedersi affatto. Emma indovinò ciò che dovevano pensare tutti gli astanti. Essa era il suo oggetto e ciascuno doveva accorgersene. Lo presentò alla sua amica Miss Smith e in seguito, quando se ne offrì il destro, sentì quel che l'uno pensava dell'altra. Egli non aveva mai visto un viso così leggiadro ed era incantato della sua ingenuità. E lei? Certo, era fargli un gran complimento, ma le sembrava che avesse delle espressioni che facevano pensare a Mr. Elton. Emma frenò la sua indignazione e solo le voltò la schiena in silenzio. Sorrisi d'intesa furono scambiati tra lei e il giovane signore alla prima vista di Miss Fairfax, ma era quanto mai prudente evitare di discorrere. Egli le disse che non aveva veduto l'ora di abbandonare la sala da pranzo, detestava star seduto a lungo, era sempre il primo ad alzarsi quando poteva, che aveva lasciato suo padre, Mr. Knightley, Mr. Cole e Mr. Cox, ingolfati nelle faccende della parrocchia. Finché era rimasto lui, tuttavia, la riunione era stata abbastanza piacevole, poiché egli li trovava in complesso una compagnia d'uomini distinti e pieni di buon senso. E parlò, insomma, così bene di Ivory, la stimava così ricca di famiglie simpatiche, che Emma cominciò a sentire d'essere stata stolta a disprezzare troppo il posto. Gli fece domande circa la società nello Yorkshire, quanti vicini ci fossero nei dintorni di Enscombe e simili, e dalle sue risposte poté convincersi che, per quanto riguardava Enscombe, c'era ben poca vita sociale, che le loro visite erano in una sfera di grandi famiglie, nessuno molto vicina, e che anche quando veniva fissato il giorno e gli inviti erano stati accettati, si dava spesso il caso che Mrs. Churchill non si sentisse in salute o d'umore d'andare, che per principio essi non visitavano una persona nuova e che, sebbene gli avesse i suoi impegni separati, non era senza difficoltà, senza considerevole abilità alle volte, che egli riusciva ad andarsene per conto suo o a far ospitare una sua conoscenza per una notte. Emma vedeva che Enscombe non poteva soddisfare e che Ivory, presa in quel che aveva di meglio, avrebbe potuto ragionevolmente contentare un giovane che a casa sua aveva più isolamento di quanto gli sarebbe piaciuto. La sua importanza a Enscombe era evidentissima. Egli non si vantava, ma la cosa si tradiva da sé naturalmente, che egli aveva persuaso sua zia in casi in cui lo zio non poteva far niente, e siccome Emma rise e lo notò, egli ammise di credere che, eccetto che su uno o due punti, egli poteva col tempo persuadere la zia a tutto. Poi nominò uno di quei punti su cui la sua influenza era inefficace. Aveva desiderato molto di recarsi all'estero, aveva anelato che gli permettessero di viaggiare, ma essa non voleva saperne. Ciò era accaduto l'anno prima. Adesso, egli diceva, cominciava a non aver più lo stesso desiderio. Il punto su cui la zia era irremovibile, che egli non nominò, Emma indovinò essere la sua buona condotta verso il padre. «Ho fatto una tristissima scoperta», disse egli dopo una breve pausa. «Domani sarà una settimana che sono qui, metà del mio tempo. Non mi è mai parso che le giornate fuggissero così rapidamente. Una settimana domani, e non ho che appena cominciato a divertirmi. Non ho che appena fatto la conoscenza di Mrs. Weston e degli altri. Detesto di pensarci. Forse ora potrete incominciare a dolervi d'aver speso un giorno intero, tra così pochi, a farvi tagliare i capelli». «No», disse lui sorridendo, «di codesto non ho affatto da rammaricarmi. Non provo nessun piacere a vedere gli amici se non mi considero in uno stato presentabile». Siccome il resto dei signori era adesso nella camera, Emma si vide obbligata a lasciarlo per alcuni minuti per ascoltare Mr. Cole. Quando Mr. Cole s'allontanò e l'attenzione di Emma poté tornare al punto di prima, vide che Frank Churchill teneva gli occhi fissi su Miss Fairfax, seduta all'estremità opposta della sala. «Che succede?» disse Emma. Egli trasalì. «Vi ringrazio d'avermi riscosso», rispose. «Credo di essere stato assai sgarbato. Ma davvero, Miss Fairfax si è pettinata in un modo così strano, così straordinario, che non posso staccarle gli occhi di dosso. Non ho visto mai nulla di così eccentrico. Quei riccioli. Deve essere un'invenzione sua. Non vedo nessun altro simile a lei. Debbo andarle a chiedere se è una moda irlandese. Lo faccio? Sicuro lo farò, dichiaro che lo farò, e vedrete come lo piglia se le sale il rossore al volto». E andò senz'altro. E ben presto Emma lo vide di fronte a Miss Fairfax e in atto di parlarle. Ma quanto all'effetto del discorso sulla signorina, siccome egli si era sbadatamente collocato proprio tra di loro, proprio davanti a Miss Fairfax, Emma non poté distinguere assolutamente nulla. Prima che egli potesse tornare alla sua sedia, questa fu presa da Mrs. Weston. «Questo è il godimento di una numerosa compagnia», disse. «Uno può avvicinarsi a ciascun altro e dire ogni cosa. Mia cara Emma, muoio dalla voglia di parlarti. Ho fatto delle scoperte e architettato dei progetti proprio come te, e devo dirteli finché l'idea è fresca. Sai come sono venute qui Miss Bates e sua nipote?» «Come? Sono state invitate, no?» «Oh già, ma come sono state trasportate fin qui? Il loro mezzo di locomozione?» «Sono venute a piedi, direi. Come potevano venire altrimenti?» «Verissimo. Ebbene, un momento fa mi è venuto fatto di pensare come sarebbe triste se Jane Fairfax dovesse tornare a casa a piedi di notte tardi e con queste notti fredde da adesso. E mentre la guardavo, benché io non l'abbia mai visto tanto carina, ho notato che è accaldata e perciò sarebbe particolarmente soggetta a prendere freddo. Povera figliola, non ho potuto sopportare l'idea, sicché appena Mr. Weston è entrato nella stanza e ho potuto avvicinarlo, gli ho parlato della carrozza. Può indovinare come ha accettato volentieri il mio desiderio, e avuta la sua approvazione mi sono subito diretta verso Miss Bates per assicurarla che la carrozza sarebbe stata a sua disposizione prima che portassi a casa noi, che pensavo che la cosa le avrebbe subito dato un gran sollievo. Poveretta, può immaginare quanto me ne è stata grata. Nessuno era mai stato fortunato quanto lei, ma con mille e mille grazie. Non c'era bisogno che ci disturbassimo, perché la carrozza di Mr. Knightley le aveva portate e doveva riportarle a casa. Sono rimasta proprio sorpresa. Contentissima, certo, ma davvero proprio sorpresa. Una premura così gentile e così previdente. Il genere di cose a cui così pochi uomini penserebbero. In breve, conoscendo le sue abitudini, propendo assai a credere che è stato per loro comodità che Mr. Knightley si è servito della carrozza. Sospetto che non avrebbe voluto una pariglia per sé, che è stata solo una scusa per aiutar loro». «Con ogni probabilità», disse Emma, «nulla di più probabile. Non conosco nessuno pronto come Mr. Knightley ad agire in questo modo, ad agire in modo veramente buono, utile, premuroso o benevole. Non è un uomo galante, ma è molto umano. E questo, considerando la cattiva salute di Jane Fairfax, apparirebbe ai suoi occhi un caso d'umanità. E per un atto di cortesia non ostentata, non c'è nessuno a cui penserei più che a Mr. Knightley. So che oggi aveva la vettura, poiché siamo arrivati insieme e l'ho preso in giro in proposito, ma lui non ha detto una parola che potesse tradirlo. «Ebbene», disse sorridendo Mrs. Weston, «in questo caso tu gli fai credito più di me per una benevolenza pure disinteressata. Perché, mentre parlava, Miss Dade mi ha attraversato la mente un sospetto e non sono più riuscita a scacciarlo. Più ci penso, più mi pare probabile. In breve, ho combinato un matrimonio tra lui e Jane Fairfax. Vedi a che si arriva frequentandoti. Che ne dici?» «Mr. Knightley e Jane Fairfax?» esclamò Emma. «Cara Mrs. Weston, come avete potuto pensare una tal cosa? Mr. Knightley non si deve sposare. Non vorrete mica che il piccolo Henry venisse privato di Donwell?» «Oh, no, no, no, Henry deve avere Donwell. Non posso consentire affatto che Mr. Knightley prenda moglie, e sono sicura che la cosa non è punto probabile. Sono stupefatta che vi sia saltata in testa. Mia cara Emma, ti ho detto che cosa mi ci ha fatto pensare. Non che io voglia affatto quel matrimonio, non voglio danneggiare il caro piccolo Henry, ma l'idea mi è stata data dalle circostanze, e se Mr. Knightley davvero desiderasse di sposarsi, non vorresti mica che si estenesse per via di Henry, un ragazzino di 6 anni, che non sa nulla della faccenda? Sì che lo vorrei, non potrei tollerare che Henry fosse soppiantato. Mr. Knightley sposarsi? No, non ho mai avuto tale idea e non posso adottarla adesso. E poi proprio con Jane Fairfax. Ma essa ha goduto sempre grandemente il suo favore, come tu sai benissimo. Ma l'imprudenza di un tale matrimonio? Non parlo della sua prudenza, solo della sua probabilità. Non ne vedo alcuna, a meno che voi non abbiate fondamento migliore di quello che avete enunciato. La sua benevolenza, la sua umanità, vi ripeto, basterebbero per render conto della vettura. Egli ha grande riguardo per le Bates, sapete, indipendentemente da Jane Fairfax, ed è sempre felice di far loro qualche favore. Mia cara Mrs. Weston, non vi mettete a combinare matrimoni, ci riuscite molto male. Jane Fairfax, padrona dell'abbazia. Oh no, no, ogni sentimento si ribella, per amor di lui non vorrei che facesse una tale pazzia. Chiamala imprudenza se vuoi, ma non pazzia. A parte l'ineguaglianza di beni di fortuna e forse un po' di divario d'età, non vedo nulla di incompatibile. Ma Mr. Knightley non vuole sposarsi, sono sicura che non ci pensa minimamente. Non glielo mettete in testa. E perché dovrebbe sposarsi? Non potrebbe essere più felice solo con me, con la sua fattoria, le sue pecore, la sua biblioteca e tutta la parrocchia da governare, e vuole un gran bene ai figli di suo fratello. Non ha nessuna ragione di sposarsi, né per riempire il suo tempo, né per riempire il suo cuore. Mia cara Emma, finché la pensa così, è così, ma se davvero ama Jane Fairfax, che assurdità! Non si cura affatto di Jane Fairfax. Dal punto di vista dell'amore non se ne cura. Farebbe ogni favore a lei o alla sua famiglia, ma... Ebbene, disse ridendo Mrs. Weston, forse il più grande favore che egli potrebbe far loro sarebbe di accasare Jane in modo rispettabile. Se sarebbe un favore per loro, son certa che sarebbe un dispetto verso lui stesso, un matrimonio quanto mai vergognoso e degradante. Come potrebbe tollerare di imparentarsi con Miss Beth, vedersela sempre tra i piedi all'abbazia, a ringraziarlo tutto il santo giorno per la sua gran bontà di sposare Jane? Così gentile e buono, ma egli era stato sempre un vicino così gentile. E poi a mezza frase saltar di palo in frasca e mettersi a discorrere della vecchia sottana di sua madre. Non che fosse una sottana vecchissima, perché sarebbe durata ancora per un pezzo, e davvero doveva dire che grazie a Dio tutte le loro sottane erano robustissime. Per carità, Emma, non farle il verso, mi fai ridere contro la mia volontà. E poi, parola d'onore, non credo che Mr. Knightley sarebbe molto disturbato da Miss Bates. Le piccole cose non lo irritano. Essa potrebbe seguitare a parlare, e se lui stesso volesse dir qualcosa, non farebbe che parlare più forte e soffocare la voce di lei. Ma la questione non è se sarebbe un cattivo matrimonio per lui, ma se egli lo desidera. E io credo di sì. L'ho sentito parlare, come devi averlo sentito tu, con tanto elogio di Jane Fairfax. L'interesse che ha per lei, la sua ansia per la sua salute, il suo rammarico che a lei non si offre un futuro migliore. L'ho sentito esprimersi con tanto calore su questi punti. Un tale ammiratore della sua esecuzione al pianoforte e della sua voce, l'ho sentito dire che non si stancherebbe mai di ascoltarla. E stavo per dimenticarmi un'idea che mi è venuta. Questo pianoforte che gli è stato mandato da qualcuno, sebbene tutti ci si sia così contentati di considerarlo un regalo dei Campbell, non potrebbe venire da Mr. Knightley? Non posso trattenermi dal sospettare di lui. Credo che sia proprio il tipo di farlo, anche senza essere innamorato. Allora non può servire d'argomento per dimostrare che egli è innamorato, ma non ritengo che sia una cosa che egli può verosimilmente aver fatto. Mr. Knightley non fa nulla in modo misterioso. L'ho sentito più volte dolersi che essa non avesse uno strumento, più spesso di quanto non supporrei che una tal circostanza dovesse normalmente presentarsi alla sua memoria. Benissimo, se lui avesse voluto dargli un pianoforte, glielo avrebbe dato. E detto, ci possono essere scrupoli di delicatezza, mia cara Emma. Mi sa proprio che venga da lui. Sicuramente egli ha mantenuto un curioso silenzio quando Mrs. Cole ce ne ha parlato a pranzo. Voi afferrate un'idea e vi lasciate trascinare da essa, proprio come avete spesso rimproverato a me di fare. Io non vedo segni di speciale attaccamento, non credo affatto a questa storia del pianoforte, e solo una prova potrebbe convincermi che Mr. Knightley pensa a sposare Jane Fairfax. Argomentarono su codesto punto per un altro po' allo stesso modo, e Emma guadagnò alquanto terreno sulla mente della sua amica, poiché delle due Mrs. Weston era la più avvezza a cedere, finché un po' di tramestio nella stanza mostrò loro che tutti avevano finito di prendere il tè e si preparava lo strumento. E al tempo stesso Mr. Cole si avvicinò per pregare Miss Woodhouse di far loro l'onore di provarlo. Frank Churchill, che essa nel calore della sua conversazione con Mrs. Weston non avevo più veduto, salvo quando l'avevo osservato mettersi a sedere accanto a Miss Fairfax, seguiva Mr. Cole per aggiungere le sue più vive preghiere. E siccome, sotto ogni aspetto, conveniva di più a Emma d'essere la prima, essa annuì di buon grado. Conosceva troppo bene i limiti delle sue capacità per tentare più di quanto non potesse eseguire con lode. Non le mancavano né gusto né spirito nelle cosette che generalmente piacevano e potevano accompagnare bene la propria voce. Un accompagnamento al suo canto le diede una gradevole sorpresa. Una parte di secondo, sostenuta debolmente, ma correttamente, da Frank Churchill. Alla fine del canto essa chiese indulgenza come di dovere e seguirono le solite cerimonie. Egli fu accusato d'avere una voce deliziosa e una perfetta conoscenza della musica, il che venne negato nelle debite forme. Egli asserì francamente di essere un ignorante e di non aver voce affatto. Cantarono insieme di nuovo. Indi Emma cedette il posto a Miss Fairfax, la cui esecuzione, sia vocale che strumentale, Emma non poté nascondere che era infinitamente superiore alla propria. Non senza un po' di invidia, Emma si sedette ad ascoltare a qualche distanza dal crocchio attorno allo strumento. Frank Churchill cantò di nuovo. A quel che pareva, avevano cantato insieme una o due volte a Weymouth.